in primo piano. Di nuovo buongiorno a tutti, eccoci qui a leggere i giornali anche oggi. Oggi è la giornata dei funerali delle vittime del terremoto in Abruzzo, che, come ha detto Alessandro prima, saranno seguiti in diretta da Radio 24, e anche oggi naturalmente le aperture dei giornali sono tutte dedicate a questa notizia. Sulle prime pagine si trova anche un po' di politica italiana, con il dialogo tra Lega e Berlusconi, la politica estera con l'inaugurazione in Iran della prima centrale nucleare e la cronaca con il processo per il delitto di Garlasco. Vediamo adesso i titoli principali. Il Corriere della Sera: esame di coscienza per tutti, Napolitano in Abruzzo, il governo vara il primo pacchetto di aiuti. Ieri sera un'altra forte scossa, Berlusconi, io sono a pezzi, all'Aquila ci vorrà tempo per ricostruire. A centro pagina, spiragli per le banche USA e le borse mondiali vanno su, rivelazione del New York Times, Trichet, un 2009 molto duro. E sempre a centro pagina sul Corriere della Sera, l'Iran avanti con il nucleare ma pronti al dialogo. A questa notizia è dedicata anche la vignetta di Giannelli. Nel taglio basso del Corriere della Sera, una notizia che hanno tutti i giornali: dossier segreti, una foto rovina il Super 007, Londra, lista di ricercati che aveva sotto il braccio, finisce la stampa, dimissioni. E la notizia di sport: Adriano, basta, non torno più, ho perso la gioia di giocare a calcio, il campione dell'Inter. La Repubblica, Napoli: nessuno è senza colpa, responsabilità di molti per le norme antisismiche, il premier, non credo al dolo ma si indaghi. A centropagina l'Iran, via al sito nucleare, l'Iran sfida Obama. E la politica italiana, referendum, Berlusconi ora apre sull'election day. La Stampa, serve un esame di coscienza. Ancora in primo piano le parole del Presidente della Repubblica. Napolitano in Abruzzo, aiuti dal governo, 800 euro a negozianti e artigiani. E a centropagina anche qui l'Iran è a un passo dalla prima centrale, Ahmadinejad pronto al dialogo. La foto sulla Stampa è quella di Alberto Stasi, il processo di Garlasco, Stasi merita 30 anni. Il Sole 24 Ore, anche il giornale economico apre con il terremoto oggi, bonus per il lavoro autonomo, Napolitano, serve un esame di coscienza, oggi il lutto nazionale. A centropagina le banche e le borse, l'effetto banche traina l'Europa e Wall Street, e un'intervista che poi vedremo importante al ministro dell'interno Maroni. Maroni, un altro strappo e il governo Berlusconi rischia di andare a casa. Il Messaggero, l'abbraccio dell'Italia, Napolitano all'Aquila, bene i soccorsi, esame di coscienza per tutti. Parte il piano di aiuti del governo, questo è il titolo al centro della pagina del Messaggero. Berlusconi, trasparenza sui fondi. E il taglio basso, Garlasco, chiesti 30 anni per Stasi. Il Giornale, la prima pagina è piena delle fotografie di alcune delle vittime, la Via Crucis, oggi i funerali nel Venerdì Santo più triste della storia d'Abruzzo, le vittime del terremoto sono 287, vi raccontiamo le loro storie. Avvenire, esame di coscienza per tutti, il governo, ricostruzione trasparente, nuova forte scossa. Libero invece è dedicato alla politica italiana, Silvio spaventa Bossi, braccio di ferro PDL Lega, per placare le pretese del Carroccio il Cavaliere minaccia di far votare il referendum lo stesso giorno delle europee, il che potrebbe voler dire la fine del potere leghista. L'Unità, atto d'accusa, ancora il presidente Napolitano. Napolitano tra le macerie dice, norme antisismiche non rispettate, le colpe sono diffuse. L'Unità, il fascione rosso in alto che caratterizza la prima pagina, è dedicato invece alla gaffe dei giorni scorsi di Silvio Berlusconi sulle tende, sui campeggi. Sono parole di un cittadino dell'Aquila intervistato dal Times. Se Berlusconi pensa che siamo in vacanza in campeggio, lo invito a fare cambio. Lui può venire qui a dormire e io faccio il premier. Voglio vedere quanto gli piace passare la notte al gelo e senza acqua calda. Il Manifesto, cemento Mori, oggi all'Aquila i funerali delle vittime del terremoto, 281 i corpi recuperati ma ci sono ancora dispersi. Il capo dello Stato visita l'Abruzzo, accusa troppi crolli e responsabilità diffuse. Il Riformista, i senza vergogna, Abruzzo, tutti quelli che oggi scagliano la prima pietra dopo la tragedia, l'architetto che progettò l'ospedale rilascia interviste, Remo Gaspari, padrone della regione per 30 anni, chiede più soldi e il rettore parla di scandalo. Il Giorno, nessuno è senza colpe. Le vittime salgono a 287, oggi funerali di Stato, Napolitano all'Aquila, commozione e denuncia. Infine il secolo XIX, l'Aquila addio, molti se ne vanno, forti scosse anche ieri sera, oggi solenni funerali. Questi erano i principali titoli dei giornali. Io vorrei cominciare anche oggi con gli editoriali dei nuovi direttori del Sole 24 Ore e del Corriere della Sera. Oggi, come sapete, per la prima volta il Sole 24 Ore è firmato da Gianni Riotta. Il suo editoriale ve lo posso leggere tutto perché è molto sintetico, sta tutto in prima pagina. Ai lettori, la saggezza per una stagione. Che cosa scrive il nuovo direttore del Sole? Ringrazio l'editore per l'opportunità di lavorare con le colleghe e i colleghi del Sole 24 Ore nella stagione che trasformerà il mondo. La fine della Guerra Fredda ha avviato un processo tumultuoso di cui si vanno esaminando ora soprattutto gli aspetti negativi, dimenticando, in quella che il poeta Enzensberger chiama furia della caducità, che i miliardi di esseri umani solo da una generazione hanno lasciato la fame per un lavoro pur modesto. Le nostre società usciranno dalla crisi 2008 mutate in radice. Tocca a noi, ai governi, all'opinione pubblica, alle imprese e al mondo del lavoro, agli individui e alle organizzazioni locali o globali, preparare un esito condiviso. La coscienza della radicalità della nostra stagione e la fiducia serena nella saggezza necessaria per uscirne rafforzati ci guideranno ogni giorno, come sempre, al servizio di voi lettori, e molti auguri anche da parte mia al direttore. Invece sul Corriere della Sera c'è il primo editoriale di Ferruccio De Bortoli, che da oggi è il nuovo direttore del giornale. Il suo articolo si intitola «Quell'Italia che ce la fa, un paese e il ruolo di un giornale». Nei momenti di dolore collettivo si scoprono immagini indelebili di solidarietà, efficienza e unità di intenti del nostro paese. Due su tutte, la dignità e la compostezza di chi ha perduto sotto le macerie un familiare, la generosità di tanti volontari anonimi. In realtà non dovremmo assolutamente sorprenderci come facciamo in questi giorni. Il paese non si trasforma, non si scopre diverso, mostra solo alcune delle sue tante qualità. Lo spirito italiano, quello vero, è ben descritto dagli inviati del Corriere e ci si accorge che l'informazione è utile, necessaria. Non dovremmo stupircene. Insieme alle notizie circolano i sentimenti, le emozioni. Ci si sente tutti parte di una comunità, ma i media non svolgerebbero fino in fondo il proprio compito se non denunciassero le tante incurie, le leggi inapplicate, le costruzioni colpevolmente fuori norma e se non continuassero, anche quando l'emergenza sarà finita, a diffondere quella cultura della prevenzione e della manutenzione che misura il nostro livello di civiltà. Basta l'esempio di questi giorni drammatici, continua De Bortoli, per descrivere la funzione pubblica di un buon giornale, su carta e online, onesto, serio e costruttivo, come è il Corriere della Sera, un'autentica istituzione di garanzia del paese che da oggi sarà firmato da chi scrive. L'impegno con i lettori, in estrema sintesi, è proprio questo. Il nostro è un giornale aperto, nel quale le idee si confrontano e si rispettano, ma noi siamo dei moderati, sottolineo moderati, orgogliosi della nostra tradizione e della nostra indipendenza. Un giornale aperto è il luogo dell'incontro proficuo tra laici e cattolici, il luogo della tolleranza e della ragione, dove si tenta di costruire piuttosto che distruggere, che sta dalla parte del paese, non contro, e ambisce a rappresentare quell'Italia che ce la fa, come quella di questi giorni di passione in Abruzzo. Continua poi De Bortoli nel suo editoriale: il Corriere giudica sui fatti e qualche volta può sbagliarsi, ma non sta pregiudizialmente con nessuno. Se fosse stato sempre al servizio di qualcuno, anche dei suoi azionisti, non avrebbe mai potuto svolgere il ruolo storico che gli è proprio. Questi erano i primi editoriali dei nuovi direttori di due importanti giornali. Veniamo ora, torniamo alle notizie con il terremoto. E in particolare oggi i giornali dedicano molto spazio alla visita del presidente Napolitano all'Aquila. A questa notizia è dedicata anche uno degli editoriali di Repubblica di Michele Serra, che vi leggo, comincia in prima pagina, il titolo è «La coscienza dello Stato». responsabilità diffuse, nessuno è senza colpa. Il capo dello Stato ha parlato ritagliandosi da autorità una porzione importante del gigantesco spazio mediatico aperto dal terremoto. Ha lodato il comportamento del governo e l'efficienza dei soccorsi. Ma oggettivamente corretto il clima di quasi euforica efficienza prodotto dalla prorompente prestanza del Premier, immettendo nel discorso pubblico elementi di severità e di riflessione sulla disinvoltura con la quale questo Paese ha costruito se stesso. Lo Stato, nei primi due giorni incarnato con generosità ma anche con monolitico personalismo da Silvio Berlusconi, ha dunque anche un altro volto. È il volto della coscienza critica e del rispetto di leggi e regole, troppo spesso liquidate come impicci, che il vecchio presidente ha voluto e potuto incarnare, senza rischiare le accuse di disfattismo che l'opposizione politica si sarebbe certamente tirata addosso se non avesse scelto il basso profilo, anche mediatico, pur di non sottrarre tempo e spazio all'opera dei soccorritori. Anche per questa ragione, prosegue l'editoriale di Michele Sera nelle pagine interne di Repubblica, il comprensibile ritegno dell'opposizione, le parole di Napolitano colmano un vuoto. Non sottraendo nulla all'azione del Premier, al quale nemmeno il più animoso degli avversari può negare di essersi esposto in prima persona come nessun altro leader aveva saputo fare in occasione delle tante catastrofi del passato, ha però aggiunto alle emozioni forti del dopo terremoto un fortissimo richiamo alla ragione e alla realtà delle cose. L'elargizione di denaro, l'umanità dei soccorritori, la mobilitazione di tecnica e politica, insomma la potente macchina della quale il Premier ha preso il volante davanti alla totalità delle Camere e dei microfoni nazionali, non esauriscono i compiti di ciò che chiamiamo Stato. Resto su Repubblica per leggere qualche stralcio dell'inchiesta che Repubblica dedica al perché i palazzi in Abruzzo sono crollati in questo modo. È richiamata a centropagina con una fotografia sulla prima pagina del quotidiano. Il titolo è «Palazzi costruiti con la sabbia del mare, ecco perché il terremoto li ha sbriciolati». Uno è ancora in piedi, l'altro è polvere, in uno si sono salvati tutti, nell'altro ne hanno tirati fuori 29, 26 morti e 3 vivi. Erano apparentemente attaccati, due palazzi gemelli. Il primo ha qualche crepa, il secondo è avvolto da un fumo di calcinacci che segna i confini del luogo più fatale dell'Abruzzo terremotato, via Campo di Fossa numero 6B. Eccolo il piccolo grande cimitero della città dell'Aquila. Il terreno è in pendenza, pericolosamente in pendenza. Qui hanno costruito sulle montagne russe. Dal giardino pubblico sono 65 scalini a scendere, poi soltanto le pietre che hanno restituito quei corpi. Un salto e un palazzo, un altro salto e un palazzo. Da fuori sembrava un edificio solido, quello che non c'è più, ben piantato nel suolo, ma nel suo ventre c'era forse terra marcia, era appoggiato su una roccia troppo dura o troppo fragile. È quello che i tecnici definiscono terreno incoerente. Significa che un crollo non è mala sorte, ma probabilità. Continua poi il servizio nelle prime due pagine interne del quotidiano, è molto lungo e molto interessante. Lasciamo adesso le notizie sul terremoto per passare alla politica italiana e la guardiamo dal Sole 24 Ore con questa intervista al ministro Maroni. Il titolo è «Maroni, un altro strappo, il governo Berlusconi rischia di andare a casa». Se ci fosse una terza bocciatura sulla norma per trattenere i clandestini, il governo sarebbe a rischio. Ma intanto il ministro Roberto Maroni sta studiando un piano con il capo della polizia, Antonio Manganelli, per fronteggiare la fuoriuscita dal 26 aprile di 1.038 immigrati irregolari. Li conosciamo a uno, ci sarà un impegno straordinario delle forze di polizia. Il ministro spiega che Silvio Berlusconi ha assunto un impegno personale per accelerare i rimpatri e ha detto che la bocciatura parlamentare è stato un incidente interno al PDL. La norma sarà reinserita nel DDL sicurezza e se sarà necessario verrà posta la fiducia. Vediamo poi nelle pagine interne che cosa dice Maroni. Con un sorriso un po' amaro, Roberto Maroni commenta le ultime decisioni sull'immigrazione in Francia. Hanno fissato per l'anno prossimo l'obiettivo di 5.500 arresti di chi facilita o tenta di facilitare l'ingresso, la circolazione o il soggiorno irregolare. In Italia, il ministro dell'Interno invece deve fare i conti con il problema che il 26 aprile 1.038 immigrati potrebbero uscire dai centri di identificazione ed espulsione se non si ripristina la norma bocciata mercoledì alla Camera. Ha incontrato il Premier insieme a Bossi, la russa Eletta, gli chiede Marco Ludovico sul Sole 24 Ore. C'è una soluzione in vista? Non ancora, risponde Maroni. Il Presidente del Consiglio si è però assunto, su mia richiesta, la responsabilità politica e istituzionale di trovare una via d'uscita. In pratica, quali sono le strade possibili? L'ipotesi di riconvocare il Parlamento per approvare il decreto con il reinserimento della norma è stata scartata. Fare un nuovo provvedimento d'urgenza, vista la fuoriuscita dei clandestini dal 26 aprile, incontra obiezioni tecnico-giuridiche. La terza soluzione è recuperare tutto nel disegno di legge sicurezza oggi alla Camera, dandogli corsia preferenziale. Poi dopo prosegue dicendo i tempi si allungano, però Maroni risponde: possono bastare 2 mesi. Si sta anche ipotizzando una norma ponte d'urgenza per evitare che si spalanchino le porte dei centri. Di certo nel DDL la norma sull'estensione del periodo di trattenimento si ispirerà alla direttiva UE, che considera fino a 18 mesi di permanenza. Gli chiede a un certo punto l'intervistatore: forse sarà improbabile, ma cosa accadrebbe con un terzo voto contrario? E risponde il ministro dell'Interno: la sorte del governo sarebbe a rischio. La riunione con il Premier l'ha soddisfatta anche sul piano politico? Berlusconi mi ha detto: il governo è con te. Resto sul Sole 24 Ore per approfondire con la nota politica di Stefano Folli l'altra notizia del giorno, cioè la strategia di Berlusconi riguardo all'Election Day. Il titolo è: Anche il referendum è parte della strategia del Premier verso la Lega. Il segretario del PD, Franceschini, si domanda quanto ci sia di vero e quanto di tattico nell'improvvisa conversione di Silvio Berlusconi all'ipotesi del cosiddetto Election Day, l'accorpamento in un'unica data delle elezioni europee e del referendum sulla legge elettorale. È un interrogativo che si sono posti in molti nelle ultime ore, ma a cui si può dare una risposta abbastanza chiara. Più che una mossa tattica, si tratta di una aspetto della nuova strategia berlusconiana, una strategia volta a mettere in difficoltà la Lega, evitando che passi l'idea di Bossi, Maroni e Calderoli come veri padroni della coalizione di governo. Il sostanziale boicottaggio del referendum, quale deriverebbe da un voto separato e collocato alla fine del periodo elettorale tra amministrative ed europee, non è utile solo alla Lega, ma non c'è dubbio che all'interno della maggioranza sia soltanto la Lega a trarne vantaggio. Poiché il quesito referendario tende a rendere bipartitico il sistema, è chiaro che in caso di approvazione il potere di interdizione di Bossi sarebbe ridimensionato. Fino all'altro giorno Berlusconi non si era posto il problema, lasciando che la questione fosse decisa da Maroni in una chiave favorevole agli interessi leghisti. Ieri ha scoperto che gli argomenti del comitato promotore Guzzetta Segni, ma anche, va detto, del Partito Democratico, sono ragionevoli e qui si aprirà un nuovo capitolo del dialogo, diciamo così, tra Berlusconi e Lega. Un altro aspetto della politica italiana riguarda invece il PD, cioè l'opposizione. Lo guardiamo sul Corriere della Sera e riguarda le scelte del PD per le elezioni europee. Il titolo della nota di Paolo Franchi, del commento di Paolo Franchi, che parte dalla prima pagina, è: Cofferati non si candidi. Con ogni probabilità siamo abbondantemente fuori tempo massimo, visto che l'annuncio è ufficiale. Ma se dovessimo dare un amichevole consiglio a Sergio Cofferati e a Dario Franceschini, il suggerimento sarebbe quello di lasciar perdere. Intendiamoci, Cofferati è una persona seria e un dirigente politico sperimentato della sinistra italiana, scrive Franchi e prosegue poi nelle pagine interne elencando tutte le qualità politiche e umane di Cofferati. Francamente, scrive a un certo punto, si fatica a capire dove Franceschini possa trovare personalità con queste caratteristiche, ma ciò non toglie che Cofferati, sia detto senza malizia, più che un uomo del futuro, è un uomo del passato, o meglio, è un uomo che In un passato relativamente recente, da segretario generale della CGIL, ha avuto perfino al di là delle sue intenzioni e delle sue ambizioni una grande occasione e non ha voluto o potuto o saputo coglierla. Questo scrive Franchi dalle pagine del Corriere della Sera. A questo punto resto sul Corriere della Sera per leggere qualche cosa della politica estera, e cioè di questa notizia che è arrivata dall'Iran. La notizia è richiamata in prima pagina e poi approfondita nelle pagine interne. Il titolo: nucleare, l'Iran va avanti, ma siamo pronti al dialogo. Ahmadinejad inaugura il primo impianto per l'uranio. È la politica del Sima, tanto in voga in Medio Oriente, ed è su questa linea di doppio standard che si è attestato Mahmoud Ahmadinejad. Il presidente iraniano non ha respinto le offerte di trattativa giunte dall'Occidente. Ha invitato Barack Obama a un confronto serio e giusto. Ha alluso alla presentazione di nuove proposte, visto che le condizioni sono cambiate. Ma intanto ha spinto avanti il piano nucleare, mescolando fatti veri e propaganda. Una tattica per proteggere le proprie intenzioni e al tempo stesso guadagnare tempo. Teheran desidera parlare, senza però sacrificare il suo sogno, che per ora non sembra negoziabile. Il presidente, infatti, ha festeggiato ieri la giornata dell'energia atomica con tre sviluppi significativi. Primo, ha inaugurato il primo impianto per la produzione di uranio a Isfahan. Secondo, ha annunciato la messa a punto di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio più potenti e moderne. Terzo, la divisione ricerca ha acquisito altre 7.000 centrifughe. Ecco, a questo punto vi leggo da ultimo, penso perché stiamo per finire, un'altra notizia abbastanza interessante che hanno tutti i giornali, arriva da Londra, io la leggo dalla Stampa: l'errore fatale dello 007 di Scotland Yard. C'è la foto di questo signore con dei fogli in mano, adesso capirete perché. Stavolta Bungling Bob il pasticcione, come lo chiamano i colleghi, l'ha fatta grossa per davvero. Bungling Bob, al secolo Bob Quick, decano di Scotland Yard nonché massimo responsabile dell'antiterrorismo, si è dimesso ieri dopo aver commesso un'imprudenza colossale che poteva compromettere un'importante operazione contro una cellula di Al-Qaeda in Gran Bretagna. Mercoledì mattina, convocato da Downing Street per un briefing, Quick è sceso dalla macchina tenendo tra le braccia in bella vista un plico di documenti riservati sull'imminente blitz della polizia. I fotografi, appostati come sempre davanti alla sede del governo, hanno immortalato fogli, target e luogo dell'intervento, nomi degli agenti coinvolti. Uno scoop che il direttore generale dell'MI5, Jonathan Evans, ha invano tentato di bloccare, accompagnando ragioni di sicurezza nazionale. Dopo poche ore, immagini e dettagli del rapporto avevano fatto il giro del mondo. Impossibile arginare il disastro se non anticipando l'operazione e chiedendo la testa del responsabile. Io mi fermo qui, oggi era il mio ultimo giorno, quindi un saluto a tutti e una risentirci.